Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Forse state trattenendo il respiro o state respirando troppo superficialmente. Io posso sbagliarmi, ma proviamo a verificare. Ci facciamo aiutare dal professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Può fare il test su di me? Stavo trattenendo il respiro? No, direi che l'allenamento respiratorio dato anche dalla tua professione ti consente di respirare e di parlare tranquillamente senza movimenti di apnea. Una cosa importante che si potrebbe già verificare e che si potrebbe testare semplicemente da casa è cercare di fare un 3 respirazioni utilizzando contemporaneamente sia la bocca che il naso, quindi inspiro dalla bocca e dal naso ed espiro contemporaneamente dagli stessi organi. Se nell'atto inspiratorio sento nel petto, tra i pettorali, una sorta di vibrazione, un qualcosa che mi segnala che non c'è fluidità di questo gesto biomeccanico, potrebbe essere un sintomo o di ansia o di qualsiasi altra situazione, magari muscolare, che mi porta a non poter ampliare, decontrarre quelli che sono i muscoli, tra i muscoli più importanti respiratori, come per esempio anche i muscoli pettorali. E quindi, se invece io sento un respiro molto più fluido, molto più tranquillo, proprio come un'acqua quieta, allora io posso sentire che ho una capacità di allenare quegli 800 milioni di alveoli che fortunatamente mi permettono di distribuire il qi, il prana, come si dice in determinate culture, che è il nostro ossigeno. 800 24 00 24 se volete respirare con noi. Il professor Tirelli resta con noi e ci accompagnerà nel corso della trasmissione con esercizi e test per misurare un po' la nostra capacità polmonare. Io stavo riflettendo che quello del respiro è uno strano meccanismo, perché noi lo facciamo involontariamente in continuazione, eppure non appena iniziamo a concentrarci sulla nostra respirazione, ecco che il ritmo cambia, diviene magari forzato, innaturale. Capita così anche a voi, immagino, se volete dirmelo, e soprattutto quando, in particolare, quando vi concentrate sul respiro, oppure quando siete emozionati, quando salite le scale, fate una corsa per prendere il tram, di notte, dopo aver mangiato, chiamateci, perché il nostro numero verde è a disposizione. E oggi, insieme ai nostri esperti, cercheremo di capire perché il nostro respiro a volte diventa difficoltoso, cambia, si fa corto, proviamo quella spiacevole sensazione che viene descritta come fame d'aria, e insieme ai nostri esperti scopriremo soprattutto i vantaggi di una corretta respirazione e suggeriremo gli esercizi per respirare a pieni polmoni. Breaking news. Un aggiornamento positivo sulla vicenda dei 2 Marò arrestati in India con l'accusa di omicidio. Ebbene, sarebbero stati liberati su cauzione. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, lo annuncia la TV indiana CNN IBN, l'alta corte del Kerala avrebbe dunque concesso la libertà su cauzione dei 2 Marò. Aggiornamenti e approfondimenti nel GR di mezzogiorno. Qui in studio noi abbiamo il piacere di avere il dottor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia all'ospedale San Giuseppe di Milano, che è pronto ad ascoltare il nostro respiro. Dottor Arari, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. La nostra capacità polmonare, dottore, tende a diminuire con l'età, perché anche i polmoni, immagino, come tutti gli altri organi, invecchiano, ma non sono solo gli anni a rendere il respiro difficile, ma anche la stessa aria che respiriamo, al punto che vivere in un quartiere centrale o periferico di una grande città ha delle ricadute anche sull'aspettativa di vita, come lei scrive nel suo libro Il medico in tasca, che è un libro che io consiglio ai nostri ascoltatori e da cui ho tratto questa notizia, come sottotitolo Tutto ciò che dovete sapere sulla vostra salute in 350 risposte. E anche il luogo in cui viviamo può incidere sulla nostra aspettativa di vita. Perché, dottor Arari? Ma assolutamente, esistono molti studi anche di natura sociologica che hanno provato come i fattori ambientali, economici e sociali influenzino la nostra vita, e questo è avvenuto dall'epoca della rivoluzione industriale fino ai giorni nostri. Quello che colpisce è il fatto che anche in società moderne che noi riteniamo eque socialmente, come la nostra o di altri paesi europei o ancora quelle americane, invece ci siano delle grandissime diversità sociali che impattano sulla sopravvivenza, tanto che, per esempio, se si percorre la Circle Line di Londra, sì, a seconda delle fermate c'è una diversa sopravvivenza e si perdono nell'arco di tutto il giro della metropolitana 6 anni di vita. Questo è stato fatto in maniera così un po' significativa a Londra, ma sono studi che anche nella nostra città, a Milano, o anche in altre importanti città europee e americane, hanno documentato come il vivere in zone più o meno agiate influenzi significativamente poi la nostra qualità di vita. Perché è anche l'ambiente che respiriamo. È l'ambiente che respiriamo e anche come viviamo, come ci alimentiamo, i nostri stili di vita, che sono fortemente influenzati anche dalla situazione sociale nella quale viviamo. In questo senso l'ultimo rapporto Osserva Salute di quest'anno, che è stato pubblicato 2 settimane fa, documenta un'Italia per esempio ancora fortemente divisa, con comportamenti, stili di vita e malattie che cambiano per esempio a seconda delle regioni di appartenenza. 800 24 00 24 per respirare in pieno benessere oggi, per segnalarci anche in che situazioni, in quale occasioni sentite il vostro respiro. Uso questo verbo sentire, che noi possiamo utilizzarlo, professor Tirelli, per correggere il nostro respiro, o anche, questo ce lo spiegherà il dottor Harari, per capire se il nostro respiro è corretto, perché possiamo utilizzare proprio il respiro come la cartina tornasole del nostro benessere. Professor Tirelli, voi che vi occupate, no, di, come lei, di tecniche complementari e avete una visione, usando un termine molto utilizzato, olistica, insegnate alle persone a sentire il loro respiro, quasi come per capirne il ritmo, la profondità, l'estensione. Ci aiuta? Sì, questo è fondamentale, ma in tutti i campi dell'attività motoria, sia in campo preventivo, sia in quello performante, quello anche rieducativo funzionale. In campo preventivo, perché se io sento, mi alleno, sento una capacità proprio di aumento del mio volume polmonare con una respirazione cosiddetta diaframmatica, comunque, per dirla magari in breve, esercitando il mio atto inspiratorio dal naso e al contempo gonfiando, per così dire, l'addome, sì, per poi espirare dalla bocca e rilassare l'addome, già atto una ginnastica respiratoria importante che mi aiuta a ottimizzare quelle che sono le funzioni di nutrimento dei tessuti. Allora, in campo preventivo io mi alleno ad avere più resistenza comunque, perché maggiore l'apporto di ossigeno, di sangue nei tessuti, e maggiore la capacità di performance anche per l'atleta di massimo livello o di livello anche amatoriale, ma anche in ambito rieducativo funzionale, perché laddove io ho delle problematiche di lesioni muscolari, stiramenti, contratture, strappi, ho bisogno comunque di un apporto di carburante quanto più pulito possibile. Anche nella maratona, per esempio, faccio proprio un esempio di tanti appassionati di maratona: se io mi alleno durante la gara a rilassare altri muscoli che non c'entrano nulla con l'atto meccanico, biomeccanico della corsa, quindi io posso correre ad avere tipo le contrazioni della faccia, del viso, la contrazione dei miei arti superiori, muscoli che non mi servono per l'atto della maratona, e al contempo, se invece io smonto questi meccanismi di contrazione e cerco invece di fare attenzione alla mia respirazione, quindi dal naso e dalla bocca, io riesco a smontare consumi, sprechi energetici, ad aumentare invece quantitativi di intromissione di energia pulita. Dottor Harari, il respiro a volte è facile, lo sentiamo, perché è rumoroso. A volte invece respirare a fondo ci produce una sensazione di fastidio, quasi una morsa dolorosa. Questi due segnali che ci dà il nostro respiro, come possiamo interpretarli? Normalmente noi non percepiamo la nostra respirazione, quindi già se la percepiamo vuol dire che c'è qualcosa di anomalo. Il qualcosa di anomalo, come si accennava prima, può anche essere semplicemente un problema di natura ansiosa, quindi può essere semplicemente sentire il cuore in gola o sentire uno stato di costrizione del nostro torace, che però è espressione di uno stato di nervosismo, diciamo, sì, così. Come invece può essere invece qualcosa di realmente presente, come una situazione di tipo asmatico, oppure semplicemente dei problemi di coordinamento respiratorio, o ancora di qualcosa di più serio. Quindi è molto importante, quando ci si rivolge a un dottore, soprattutto essere in grado di descrivere precisamente le difficoltà di respiro che si hanno. E in quali situazioni? Esattamente. Se siamo fermi, se ci muoviamo, facciamo le scale, di notte, di giorno, se abbiamo mangiato, se siamo a digiuno, 800 24 00 24. Sia il professor Tirelli che il dottor Harari hanno citato l'ansia, lo stress. Molti di noi in questo momento, e le notizie che arrivano, insomma, non aiutano, ci sentiamo con il fiato un po' corto per l'apprensione, abbiamo tante cose da fare, tanti pensieri che affollano la nostra mente. Il respiro è veramente il rimedio naturale alla portata di tutti per sciogliere queste tensioni, e in linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, che è stato nostro ospite proprio nella puntata di ieri. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e sui illustri ospiti, a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, noi l'abbiamo chiamata perché proprio ieri parlavamo di una respirazione che può fare al caso nostro. Sì, si tratta della respirazione di Benson e Shapiro. È una respirazione che è stata messa a punto qualche decennio fa, continuamente sottoposta a studi, perché ha un'efficacia particolare, soprattutto sulle funzioni cognitive, che è l'aspetto che a noi interessa di più. Sì. Questa respirazione, infatti, si è visto che può ridurre le quote di ansia di cui parlava prima, le quote di stress, addirittura anche il tono depressivo può essere, diciamo, inclinato significativamente. Inoltre, la cosa particolare è che aumenta le capacità empatiche, quindi di mettersi nei panni degli altri, e a livello cognitivo le capacità attentive di concentrazione. Quindi facciamolo subito, professore. Sì, è un respiro magico questo. È un respiro che ha delle particolarità, che poi tra l'altro è molto studiato da diversi anni dal professor Anchisi dell'Università di Parma, che sta continuando a monitorare questa attività e a metterla anche a confronto con le altre tecniche orientali, occidentali e quant'altro. Non ci faccia trattenere il respiro, professor Iannoccari, ci spieghi come si fa. Allora, il format è quello normale della respirazione, per cui ci si mette comodamente seduti in un ambiente, diciamo, dove non ci sono troppe distrazioni luminose o sonore, si chiudono gli occhi, si allenta il tono muscolare, per cui ci si rilassa, e poi si respira, possibilmente, se si può, col naso, con una respirazione normale, non ci deve essere una respirazione necessariamente profonda. E quando l'aria entra e quando l'aria esce, si cerca di concentrarsi appunto sull'aria che passa attraverso le narici. La particolarità qual è? È che nel momento in cui si espira bisogna dire mentalmente la parola one, come il termine uno in inglese per intenderci. Basta dire ogni volta one quando si espira. Questa procedura va fatta per 10-20 minuti. E in questo periodo può capitare comunque che i nostri pensieri ci portano altrove, per cui non preoccupiamoci se ci distraiamo, se ci deconcentriamo. La parola magica è one. E noi ci facciamo aiutare anche da questo brano. Professor Iannoccari, grazie. One. Buona giornata. Anche a lei. Buongiorno, Nicoletta. Abbiamo Giuseppe dalla provincia di Palermo. Buongiorno Giuseppe, buon respiro. Buongiorno, grazie. Che vuol dire buona energia, buona vita? Sì, io sono in questo momento in una zona qua vicino al mare, vedo tutto il mare. E alcune volte io c'ho sto problema, siccome io sono un ragazzo abbastanza attivo, faccio dello sport e sollevamento pesi, però ci sono alcune cose che dei momenti non riesco, la respirazione non riesce a venire, diciamo, con la contrazione dei muscoli. C'è questo problema, mi si accumula aria nello stomaco. Ed ho dei grossi problemi, poi diciamo, dopo che finisco tutto il set di... Certo, rimane senza fiato, come si dice. Sì, oltre a questo mi dà dei giramenti di testa. E poi mi succede, non so se è un fattore di ansia, sì, che alcune volte faccio dei grossi respiri, però intervallati. In che senso? Quando mi succede, da presente, quando una persona ha pianto, sì, e poi viene quel respiro a singhiozzo, tipo a due scatti, sì, mi vengono certe volte questi, non so a che cosa è dovuto, forse alle situazioni ansiose. Non grazie, so, Giuseppe. Maria Teresa da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io volevo fare... Lei pesi non ne fa? Non abita vicino al mare? No, io non abito a Torino, quasi in pieno centro, quindi no. Volevo chiedere una cosa. Mi succede spesso che quando, cioè, io so di respirare, perché altrimenti non sarei in vita, però a livello psicologico di provocare degli sbadigli per rendermi conto di continuare a respirare, e questo mi capita non in situazioni di sforzo, anche da tranquilla, ecco. Sì. Volevo la necessità di respirare rapidamente prima dei mercati, due situazioni con un denominatore comune, il respiro, due ascoltatori che ci raccontano che il loro respiro gli manda dei messaggi che non sanno interpretare, ma questa è già una buona cosa, perché se noi facciamo attenzione al nostro respiro possiamo scoprire tante cose del nostro organismo e della nostra mente, e possiamo soprattutto chiamare il nostro numero verde. Professor Tirelli. E rispetto al primo intervento, io credo che sia una regola base quella di espirare, buttare fuori l'aria nel momento in cui si attua il movimento di contrazione muscolare. Questo è fondamentale, proprio perché è una modalità che consente di attuare questo meccanismo di contrazione senza sovraccaricare a livello di pressione polmonare, quindi anche a livello diaframmatico. Poi il dottor Harari sicuramente meglio di me lo saprà dire. Per quanto riguarda per esempio lo sbloccare il diaframma, in tante ginnastiche mediche cinesi, sì, o di antica cultura orientale, si proprio invita la persona a stimolare lo sbadiglio. E quindi lo sbadiglio è un segnale positivo, la necessità di sbadigliare, dottor Harari, come va letta? Io credo che i due problemi riferiti dai due ascoltatori, cioè sia quello del respiro interrotto sia dello sbadiglio, siano in realtà lo stesso sintomo, ovvero sia di quando c'è una respirazione che non è perfetta e il nostro apparato toraco-polmonare, quindi la cassa toracica e i polmoni, devono come rifare lo zero, risettarsi. Allora lo sbadiglio, o quello che noi chiamiamo anche il respirone, che è il respiro, sì, profondo, o ancora, come diceva il primo radioascoltatore, il respiro spezzato, sono delle modalità attraverso cui noi facciamo lo zero del nostro apparato toraco-polmonare. Allora, anche voi fate lo zero, avete bisogno di fare dei respironi, di sbadigliare, sentite che il respiro in qualche modo è bloccato, siete in ottime mani. Essere e benessere. E con questo filo di fiato vorreste fare una partita? E anche le bolle di sapone ci fate? Forza, forza, non vi fermate! Scioglietevi i muscoli! Così come siete non reggete neanche un minuto. No, scusate mister, ma modestamente il fondo atletico non ci manca. Sì, per respirare bene ci vogliono muscoli elastici. Se volete seguire i nostri esercizi, se volete respirare a pieni polmoni, se il vostro respiro invece vi dà qualche problema, noi siamo qua a 800 24 00 24 e lavoriamo sui muscoli, professor Tirelli. Muscoli elastici? Muscoli elastici vuol dire avere la possibilità di respirare meglio. Probabilmente qualche radioascoltatore, facendo l'esercizio proposto all'inizio, può... Ripetiamolo, perché... era quello molto semplice di inspirare abbastanza profondamente dal naso e dalla bocca e poi di espirare profondamente allo stesso modo, quindi naso e bocca insieme. Si può fare da seduti tranquillamente. Se io nell'atto inspiratorio ho sentito a livello del torace, quindi sui muscoli pettorali, determinate vibrazioni fastidiose che non hanno dato un senso di benessere o comunque di qualcosa di piacevole, bravissima, proprio non c'è circolarità, allora questo è già un sintomo del fatto che a livello muscolare quantomeno noi abbiamo delle contratture. E lavoreremo su queste, ma dottor Arari, molti mi scrivono facendo questa ispirazione, questo esercizio, mi è venuta la tosse, in questo caso? La tosse di solito quando si manifesta legata a un'iperventilazione, come sì, nel caso che stiamo raccontando, è espressione di uno stato asmatico o preasmatico, di cui abbiamo già parlato altre volte, come quella che viene definita l'iperattività bronchiale, che senza entrare nei dettagli è uno stato, diciamo così, preasmatico. Quindi deve essere un campanello di allarme per effettuare un minimo di accertamenti per capire se uno soffre anche d'asma o no. Quindi se avete fatto questo esercizio, avete una tossetta leggera oppure insomma viene come una sorta di pruritino, ecco, quello che chiamano raspino oppure un po' di tosse stizzosa. Questa tosse stizzosa, fatemi capire, non sono solamente io, 800 24 00 24, datemi una mano e intanto sciogliamo i muscoli, rendiamoli elastici. Come, professor Tirelli? Io sono pronta. Ma c'è un bellissimo esercizio, si chiama training energetico, questa metodologia che unisce sia la parte di attivazione muscolare cinetica con quella dei meridiani energetici cinesi, sì, della medicina cinese. È un esercizio proprio che sviluppa il meridiano del polmone. Allora, se noi pensiamo all'aria, alla possibilità di contatto tra noi e l'esterno, un'immagine, un'icona bellissima è quella di aprire la finestra e vedere davanti a sé un bellissimo paesaggio montano oppure di mare, collinare. La cosa che istintivamente ci viene da fare, se siamo lì immersi in questa bellissima emozione, è di aprire le braccia e dire: che spettacolo meraviglioso, cioè è un qualcosa che ci viene. Allora io posso invece allenarlo questo sintomo, questa situazione. Cosa faccio? Apro, estendo le braccia come se volessi immaginare di prendere tutto il paesaggio intorno a me. È come se volessi abbracciare il paesaggio. La cosa importante però in questo caso è che il mio pollice, anziché stare verso l'alto come naturalmente avverrebbe, dovrebbe andare verso il basso. A questo punto io sentirò delle contrazioni, un allungamento muscolare. Lo state facendo? Sì. Immaginando che qualcuno mi prenda i polsi e li porti verso dietro. A questo punto sto allungando i pettorali, sto allungando i muscoli dei bicipiti e lì scorre proprio il meridiano del polmone, che è quello che mi consente di ottimizzare la capacità respiratoria insieme a tutte le pratiche ovviamente di medicina occidentale e di mettermi anche in relazione migliore a livello emotivo, empatico con le persone, perché in medicina cinese il polmone è soggetto anche alle funzioni dell'intestino e della pelle. E per rispondere a Claudio, che ci manda delle cordialità ma dice che appunto stiamo parlando di tecniche meditative che in Oriente usano da centinaia di anni, cosa diciamo? È vero? È verissimo, e fortunatamente da tutte le parti del mondo abbiamo delle ricchezze da cui possiamo trarre dei vantaggi e noi stessi occidentali possiamo dare le nostre conoscenze a chi ne è la cosa migliore, uno scambio proprio di ossigeno e di un scambio gassoso. A proposito di respiro, Luca da Roma, Giusi da Monza, e poi volevo chiedervi, c'è un altro organo, perché abbiamo la possibilità di dare ad uno di voi il libro del dottor Arari, Il medico in tasca? Vi farò fare anche un autografo, mi privo del mio, perché qual è un organo del nostro corpo che respira, assorbe e butta fuori? Ne parliamo tra poco, intanto voi potete con un esperto che ci dirà come trattarlo, che già è in linea con noi, non ve lo presento perché se no lo capite, 800 24 00 24, parleremo di un organo che respira, ha dei pori, chiamateci subito. Luca da Roma e Giusi da Monza. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, un'informazione. Io durante la notte che dormo, praticamente vado in apnea, mi sveglio all'improvviso chiedendo ossigeno. Le manca proprio il fiato? Assolutamente, come se stessi facendo un'immersione. Ecco, allora... Ti posso ascoltare per radio? Certo, può ascoltarci per radio, dottor Harari. Questa fame d'aria che arriva di notte. Di solito i risvegli notturni improvvisi, così come li ha descritti Andrea... Luca, scusate, sono sintomi ansiosi. È difficile che si manifesti conseguentemente a un vero disturbo del sonno. I disturbi del sonno comunque possono essere studiati, anche per fugare il dubbio che invece ci sia una patologia sottostante, con un esame che si chiama polisonnografia, e che può anche essere fatto a domicilio. Noi a Milano, Milano e provincia, partiamo in questi giorni, siamo già attivi con un servizio di polisonografia domiciliare, quindi previa una visita pneumologica, un tecnico specializzato va a casa del paziente, gli dà l'apparecchio, la mattina dopo lo riprende, noi scarichiamo il tracciato e decidiamo se ci sono altri accertamenti da fare, tutto fatto col servizio sanitario nazionale. E questo può essere l'esame di riferimento, così come uno fa un Holter per misurare la pressione durante le 24 ore, in questo caso invece si misurano una serie di parametri durante il sonno. E poi il tecnico che arriva a casa nostra ci mette tutta questa, l'apparecchiatura, poi se ne va. Non è che dobbiamo provvedere anche al lettino per il tecnico. No, assolutamente. Se ne torna a casa. Fantastico. Giusy da Monza, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io volevo promettere che non ho mai avuto problemi con la respirazione. Questa è una buona cosa, Sì, sì, fortunatamente sì, poi faccio sport, quindi non ho mai avuto problemi. Solo che da un anno ho una secchezza, una forte secchezza alla bocca, agli occhi e al naso soprattutto. E niente, ho già fatto i miei esami, mi hanno diagnosticato una sindrome sicca, che si pensava una sindrome di Sjögren, invece fortunatamente non è così. Però fatto sta che io continuo a mettere lacrime artificiali ed è l'unica cosa che posso fare, ma il naso e la bocca sono sempre molto molto secche e chiaramente per stare bene hanno bisogno invece di essere sufficientemente umide. Dottor Harari, purtroppo l'unica cosa che si può fare in queste cose, che sono disturbi molto fastidiosi, per fortuna senza grandi danni per l'organismo, è quello di usare vaporizzatori o umidificatori, o cercare di idratare molto le mucose anche con delle pomate che si possono trovare in commercio, e ancora bere molti liquidi per cercare, per quello che è possibile, di garantire il giusto ricambio idrico. Non è detto che il disturbo benefici significativamente di questi presidi, ma è l'unica cosa che possiamo fare. Noi dobbiamo invece andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ripeto, parleremo di un organo che ha dei pori, che respira e butta fuori. Quale organo, di quale organo parliamo? Abbiamo un esperto in linea che ti dirà come occuparsi di questo organo, a cui non piace rimanere costretto. Ad esempio, si infiamma, si secca, si segna. Essere e benessere. Margherita Serafini, quarto banco, fila centrale. Ah, oh, Postiglione, come stai? Carissima, carissima. Ma che hai fatto, il bagno? No, solo sudore. Ma la sudorazione, come tu mi insegni, non è provocata soltanto da agenti termici, ma anche da fattori emozionali. Marco, buongiorno da Bolzano. Che cos'è che respira? Buongiorno. Buongiorno. Io direi il fegato, in quanto è anche un filtrante. Marco. La fiamma si ingrossa non nel fegato. Marco, va bene, sono contenta di averla sentita. Anna Maria da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, l'ascolto sempre, sono molto contenta di parlare con lei. Anch'io, a me fa molto piacere quando mi chiamate. È un programma bellissimo e date molte informazioni utili, soprattutto di educazione sanitaria. Io sono una caposala ospedaliera. Ah, grazie allora. Anna Maria, allora la risposta lei la sa. Sì, la pelle. La pelle. Chiediamo al professor Antonino Di Pietro, che è in linea con noi, dermatologo e presidente ISPLAD. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Direi che la risposta è esatta. Perfetto, è proprio la pelle. Perché respira e anche suda, come abbiamo sentito. Certo, la pelle è un organo che respira molto. Quando noi la teniamo troppo chiusa o pressa, se la copriamo con dei tessuti che non la lasciano respirare, ci accorgiamo subito che si indebolisce. E difatti le patologie più frequenti sulla pelle sono quelle che colpiscono le pieghe, ad esempio le grandi pieghe inguinali, oppure chi ha un seno molto abbondante al di sotto nelle pieghe del seno. La pelle si indebolisce e crescono con facilità dei germi che convivono normalmente sulla nostra pelle, ma che in condizioni ambientali particolari, quindi caldo umido che viene a crearsi, si sviluppano e allora con facilità vediamo le micosi, sono quegli arrossamenti, desquamazioni con un prurito anche piuttosto fastidioso, dove la prima causa è data dalla pelle che non respira, che è occlusa e quindi la indebolisce. Alla pelle piace respirare e rimanere a contatto con tessuti naturali. Sì, certo. Alla pelle piace la semplicità, in fondo, no? Sì, certo, ma si accontenta di poche cose, un po' di luce, un po' di aria. L'importante è non maltrattarla e trattarla sempre bene. Ricordiamoci che è l'organo più esteso del nord, nel nostro corpo, 2 metri quadrati, quindi insomma è un organo che non va assolutamente trascurato, anzi va rispettato, e tra le forme di rispetto sicuramente quella di farla respirare bene. Un altro esempio pratico molto comune è quando portiamo delle scarpe che non lasciano, si dice, respirare il piede. Sì. Ecco, allora quel caldo umido che si crea porta con facilità ad una patologia molto frequente, comune soprattutto nei ragazzi che portano queste scarpe da ginnastica, che fanno sudare molto il piede, non lo fanno traspirare molto, ed è il classico piede d'atleta, che non è uno scatto, scatto di un atleta, ma è proprio un piede che rimane costretto in una scarpa e la pelle appunto soffoca. Macera. Degli spacchi tra le dita. Quindi lasciamo la nostra pelle respirare, suggeriamo anche dei bagni d'aria. Quando siamo a casa. Beh, ma infatti quando d'estate cominciamo a esporre la pelle dopo mesi invernali ci accorgiamo che la pelle migliora, diventa più forte, più tonica, più luminosa, quindi sicuramente l'aria è un elemento importante come l'acqua, come la luce, affinché la nostra pelle sia sana, bella e che si mantenga giovane. Come si dice, ben ossigenata. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere. Ma piacere anche per me stare con voi. Buona giornata e buon respiro anche a lei. Domani è una giornata importante, è il 31 maggio, in linea con noi abbiamo il dottor Roberto Boffi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, collega del dottor Arari, pneumologi impegnati a celebrare questa giornata così importante, il 31 maggio, la giornata anti. Dottore, buon tobacco day, un saluto anche a Sergio Arari. Ma quest'anno il tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è particolarmente intrigante per me, perché il titolo è Fermiamo le interferenze dell'industria del tabacco, e quindi è un argomento a cui noi all'Istituto dei Tumori siamo sempre stati molto sensibili, cercando di smascherare un po' il gioco sporco, come lo chiamiamo noi, sulla pelle soprattutto dei ragazzi, degli adolescenti, dei più deboli, che vengono più facilmente influenzati dai media o dagli sponsor quando questi vogliono cercare di farli fumare sempre di più e sempre prima. Quindi anche quest'anno cercheremo di affrontare l'argomento non tanto in termini terroristici quanto motivazionali, spiegando ai ragazzi che il fumo fa male subito e che smettere di fumare fa bene subito. Fa bene subito. Lo slogan della giornata è Dai spegnila, è lo stesso invito che lei fa sempre, ma nello specifico è stato anche il titolo del suo libro. Sì, esatto, non c'è il copyright, comunque sono contento. Vero che siete stati. Due temi principali della giornata: il consumo del tabacco in aumento e cresce anche il numero dei giovani che fumano, soprattutto le ragazze. Le ragazzine. C'è una scarsa percezione, abbiamo notato anche noi all'interno del nostro progetto della Scuola della Salute col Ministero Ministero della Pubblica Istruzione, ha una scarsa percezione di quanto possa essere anche difficile smettere di fumare già in giovane età o comunque ai 30-40 anni. Molti ragazzini sono convinti che quando vogliono smettono. Si smette, invece non è così. Dottor Boffi, io devo salutarla. Possiamo salutare, chiudere questa puntata del respiro con spegnila e respira? Grazie, dottor Boffi. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata al dottor Arari e al professor Tirelli. Noi ci sentiamo come sempre domani. Buona giornata. Essere e benessere.